giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La regione è pronta ad avviare con Intesa San Paolo un'operazione per venire incontro alle esigenze di imprese e cittadini penalizzati dal blocco dei crediti fiscali del cosiddetto superbonus. Potranno entrare allo stadio Friuli e assistere alla partita di domani tra Udinese e Monza gli abbonati alla curva nord chiusa per due turni a causa degli insulti razzisti del portiere rossonero del Milan Magnan. La decisione è stata presa poco fa. Non ci sono più minori stranieri non accompagnati a Cavazzo Carnico, trasferiti come promesso dal comune di Udine. Dopo l'apertura della comunità di accoglienza voluta dal capoluogo friulano erano stati segnalati episodi di microcriminalità. Dopo una rissa all'autostazione di Tolmezzo, uno dei ragazzi è finito in un istituto penale minorile. Un uomo aggredisce una donna in un locale goriziano e fugge, inseguito a distanza dalla vittima che era in contatto telefonico con la questura, ora in arresto. Al Teatro Verdi di Pordenone l'evento Neonis, sblocca il tuo futuro, iniziativa organizzata con l'intento di aiutare i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro, creando un punto di incontro tra gli studenti e le aziende del territorio. Sarà presentato oggi a Udine All in gioco per la legalità, progetto educativo, informativo e di ricerca finalizzato al contrasto del gioco d'azzardo e dei fenomeni di sovraindebitamento e usura correlati. Le 12:31 minuti e 30 secondi in questo istante, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Bears e Andrea Saule per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 2 febbraio. Come avete sentito nei titoli, la regione è pronta ad avviare con Intesa San Paolo un'operazione per venire incontro alle esigenze di imprese e di cittadini penalizzati dalla situazione di blocco dei crediti fiscali derivanti dal sistema ideato per l'utilizzo del cosiddetto superbonus. Secondo l'assessore alle finanze Barbara Zilli, un'operazione apripista a livello nazionale, quella che la regione ha avviato con la più grande banca italiana, Intesa San Paolo, per permettere ai crediti dei bonus edilizi di essere riscossi dalle aziende. Professionisti e imprese infatti non riescono da oltre un anno a trasformare in liquidità il credito ottenuto per la realizzazione di lavori soprattutto legati al superbonus 110% attraverso lo sconto in fattura, ora vietato dalla legge proprio per gli effetti che si sono venuti a creare. Una situazione che sta generando più di qualche difficoltà a numerose ditte anche nel nostro territorio. La soluzione prevede in sostanza la possibilità per la banca di acquistare il credito incagliato ottenendo un credito fiscale equivalente relativo al territorio del Friuli Venezia Giulia. L'operazione è stata illustrata stamattina in giunta regionale. L'iniziativa vede l'adesione già di Friuli alla finanziaria della regione. I singoli contratti potranno essere stipulati soltanto da enti e società di derivazione pubblica che però non ricadono nella definizione di amministrazione pubblica come appunto il caso di Friulia. Valutiamo molto positivamente questo accordo e restiamo in attesa di capirne la portata, ha commentato Enrico Eva, direttore di Confartigianato Friuli Venezia Giulia. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Potranno entrare allo stadio Friuli e assistere alla partita di domani tra Udinese e Monza gli abbonati alla curva nord che sarà chiusa per due turni per gli insulti razzisti al portiere del Milan Magnan. La decisione è stata presa poco fa. I tifosi abbonati della curva nord potranno acquistare il biglietto per la tribuna e i distinti per seguire i due incontri in cui la curva è squalificata. E questa è la decisione maturata pochi minuti fa in casa dell'Udinese Calcio per consentire i supporter di assistere alla sfida contro il Monza. È la stessa cosa nella partita contro il Cagliari. Ma sarà un sabato surreale allo stadio Friuli di Udine vedere la curva vuota a causa della decisione della prima sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale che ha accolto in parte il reclamo dell'Udinese Calcio contro la sanzione dell'obbligo di disputare una gara a porte chiuse e in parziale riforma della decisione ha rideterminato la sanzione nell'obbligo di disputare due gare con il settore della curva nord già diffidata per la partita contro il Napoli privo di spettatori. Adesso resta da capire cosa decideranno i 5.000 della curva nord se rimanere fuori per due turni dallo stadio Friuli aperto ai 20.000 tifosi per Udinese Monza, supporter che sicuramente non faranno mancare il loro apporto alla squadra, presumibilmente seguendo la partita fuori dallo stadio. Intanto la questura del capoluogo friulano ha messo in campo il dispositivo per l'incontro di domani. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Che fine hanno fatto i minori stranieri non accompagnati che erano stati ospitati in una struttura alberghiera a Cavazzo Carnico e che di recente si sono resi protagonisti di frequenti aggressioni e fatti di cronaca? Cerchiamo di scoprirlo nel prossimo servizio. Non ci sono più minori stranieri non accompagnati a Cavazzo Carnico, trasferiti come promesso dal comune di Udine. Dopo l'apertura della comunità d'accoglienza, voluta dal capoluogo friulano, erano stati segnalati episodi di microcriminalità. Dopo una rissa all'autostazione di Tolmezzo, uno dei ragazzi è finito in un istituto penale minorile. Questa cosa ha messo a subbuglio praticamente tutta la comunità. Noi siamo una piccola comunità e quindi avere un gruppo di persone che non conosciamo e poi assistere a questi fenomeni qua ha allarmato tutti. Io ho 70 anni e non mi è vista una roba del genere. La comunità venne aperta con una determina del comune di Udine nel novembre 2023 per la cosiddetta prima accoglienza, ovvero quella temporanea ed emergenziale che prelude al trasferimento dei minori dopo pochi giorni in strutture di seconda accoglienza. Gli uffici della regione indicano tuttavia che l'unica a poter aprire strutture di prima accoglienza è la prefettura, ai sensi di un decreto ministeriale. Interpellata, la prefettura di Udine riferisce che, essendo andato deserto un bando nell'agosto 2023, in provincia non risultano strutture di questa tipologia né sono in corso autorizzazioni. L'assessore all'equità sociale di Udine, Gasparin, aveva chiesto scusa al sindaco di Cavazzo Carnico, Borghi, per non averlo informato dell'apertura della struttura. L'assessore regionale all'immigrazione, Roberti, definisce inaccettabile questo comportamento. Fa specie, aggiunge, che un'amministrazione di centrosinistra dica sì all'accoglienza, ma in un altro paese. Il comune di Udine si difende dicendo che il provvedimento si è reso necessario perché della prima accoglienza non si sta occupando nessuno. Il bando prefettizio è andato deserto e si trattava di un regime emergenziale. Palazzo d'Aronco chiederà alla prefettura di istituire un percorso per trovare soluzioni condivise alla difficoltà dei comuni. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca, un uomo che si trovava all'interno di un ristorante di Gorizia dopo aver discusso con il titolare dell'esercizio pubblico ha aggredito in due diversi frangenti una dipendente e le ha indirizzato espliciti gesti di carattere sessuale per poi fuggire di corsa in direzione centro cittadino. La donna ha chiamato immediatamente il 112 e rimanendo in costante contatto telefonico con il personale della questura di Gorizia si è messa all'inseguimento dell'individuo tenendosi a debita distanza senza mai perderlo di vista. Dopo pochi istanti l'uomo è stato individuato e bloccato dagli equipaggi della squadra volante in piazza Cesare Battisti. Durante la perquisizione è emerso che l'uomo è un cittadino egiziano senza fissa dimora, con sé aveva anche della sostanza stupefacente che è stata sequestrata. L'egiziano è stato quindi condotto presso gli uffici della questura e posto in stato di arresto nella locale casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli è stato notificato anche il provvedimento del questore del divieto di ritorno per 3 anni nel comune di Gorizia. I carabinieri di Aurisina nel mese di gennaio hanno arrestato 3 persone destinatari di altrettanti ordini di carcerazione. Si tratta a tutti casi di cittadini rumeni. Il primo, di 48 anni, deve scontare la pena di 7 mesi e 29 giorni emessa dall'allora procura di Pinerolo per un furto aggravato commesso nel 2012. Per il secondo, anche lui di 48 anni, era stato emesso un ordine di carcerazione dalla procura di Udine di 6 mesi per porto d'armi e oggetti atti ad offendere. Il terzo, di 39 anni, rintracciato mentre rientrava in Italia dalla Romania, nei cui confronti era stato emesso un ordine di carcerazione della procura di Milano per 7 mesi e 29 giorni di reclusione per un furto all'interno di un cantiere della metropolitana. Incidente spettacolare questa mattina, ma per fortuna senza conseguenze alle persone, a Variano di Basigliano, in via Oberdan 1, dove un furgone che trasportava alimenti surgelati è andato a sbattere sul muro di una casa disabitata, compromettendo l'intera stabilità dell'edificio, ora dichiarato inagibile. La strada è ancora chiusa per permettere la messa in sicurezza dell'arteria, perché nell'urto il mezzo pesante aveva anche divelto alcuni contatori del gas. La situazione comunque è stata ripristinata, l'autista del camion coinvolto è rimasto illeso. Basta con la propaganda sui 1000 euro al mese per i non autosufficienti. L'altolà viene dal sindacato pensionati CGL del Friuli Venezia Giulia, allertato dalle centinaia di telefonate giunte nei giorni scorsi alle sue sedi territoriali dopo gli annunci seguiti all'approvazione da parte del governo del decreto attuativo della legge delega sulla riforma dell'assistenza degli anziani non autosufficienti. La Fermca CISL chiama in causa CEGAS APS AMGA per il mancato rispetto dell'accordo sul servizio mensa per i propri dipendenti a Trieste, che avrebbe già fatto perdere ai lavoratori delle quote di salario. Il problema riguarda circa 500 dipendenti della sede a Cegas APS Amga di Trieste. Secondo la FEMCA CISL avrebbero perso finora 1.000 euro di indennità di mensa in busta paga. Il sindacato segnala che 2 anni fa, col superamento del ticket elettronico e il passaggio a un sistema di pasto diffuso in locali convenzionati, i lavoratori, in base agli accordi sottoscritti con l'azienda, avrebbero dovuto percepire a regime un super minimo di 60 euro mensili per 14 mensilità. L'appalto dei ticket elettronici però è ancora in corso e scadrà nel 2026, con la conseguenza di far slittare le previste indennità ai dipendenti, rileva sempre il sindacato. FEMCA CISL lamenta di non essere stata informata preventivamente, come indica il protocollo nazionale sugli appalti del gruppo ERA. Per il sindacato non regge la giustificazione, a suo dire, adotta dall'azienda, che di mezzo c'è stata l'emergenza pandemica, perché, ricorda, è terminata il 31 marzo 2022, in tempo per dar seguito agli accordi. FEMCA CISL lamenta inoltre criticità nel sistema pasti nei locali convenzionati, in quanto raggiungibili solo coi mezzi di trasporto, e la mancata realizzazione di una mensa aziendale prevista da un accordo di un anno fa e poi sfumata in virtù di una partnership con la mensa della Trieste Trasporti. Una situazione con molti dubbi e poche certezze, e a rimetterci sono i dipendenti, dichiara il segretario regionale della FEMCA CISL Marcantonio Papagni. Valutiamo iniziative a tutela dei lavoratori, aggiunge, un nodo che si cercherà di sciogliere al prossimo tavolo azienda sindacati il 22 febbraio a Trieste. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Al Teatro Verdi di Pordenone l'evento Neoni sblocca il tuo futuro, iniziativa organizzata per aiutare i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro, creando un punto d'incontro tra gli studenti di quarta e quinta degli istituti tecnici e le aziende del territorio. Due momenti distinti, il primo dedicato all'orientamento nel mondo del lavoro e il secondo un tocco motivazionale. 450 ragazze e ragazzi degli istituti tecnici e professionali del Friuli Occidentale e del Veneto hanno incontrato 40 aziende del territorio, ma anche personaggi del mondo dello sport e della comunicazione. Ospite speciale la leggenda del basket Gigi D'Atome, assieme allo youtuber Luis Sal e al conduttore Gianluca Gazzoli. Nell'evento Neonis sblocca il tuo futuro, organizzato al Teatro Verdi di Pordenone, iniziativa che ha l'obiettivo di motivare i giovani e favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. L'ex capitano della nazionale di basket Gigi D'Atome. Penso che la nostra storia sia mia di Gazzo e di lui, se siano storie di ragazzi che hanno trovato la propria strada attraverso non poche difficoltà e grande impegno. Questo lo sport lo insegna, cerchiamo anche di parlare di altro ed è sempre bello confrontarsi con i giovani, però speriamo di dargli un po' il messaggio, insomma, che non è tutto facile da subito, ci vuole grande impegno, grande dedizione, grande passione e anche grande difficoltà per formarsi, quindi non devono sentirsi in difetto quando queste cose succedono, e speriamo che passi il messaggio. Ruggero Tagliariole è imprenditore e organizzatore dell'evento. La necessità è quella di avere sostanzialmente dei ragazzi che capiscono entusiasmo, curiosità e costanza, perché poi sono quelle tre cose che nella vita fanno la differenza. Speriamo di trasmettere energia. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Iniziato ufficialmente il percorso che vede Pordenone candidata a capitale della cultura 2027. Il comune ha ospitato per 3 giorni i referenti dell'agenzia che seguirà il progetto, i quali sono stati accompagnati dall'assessore alla cultura e ai grandi eventi Alberto Parigi in una prima visita alla città ed alcune delle istituzioni culturali cittadine, tra cui il PAF e il Teatro Verdi. Durante questi 3 giorni si sono svolti degli incontri di ascolto con alcuni dei protagonisti del mondo culturale, dei grandi eventi pordenonesi, con alcuni rappresentanti del mondo economico e sociale della città. Questo perché la candidatura vuole essere un progetto di sviluppo dell'intera Pordenone, non solo dal punto di vista culturale, ma anche sotto il profilo della rigenerazione urbana, sociale, economica e ambientale. Illustrato poco fa dal Comune di Trieste, il resoconto dell'attività della Polizia Municipale sul tema dell'educazione alla mobilità. Qualche comportamento a rischio sulla strada resta, per esempio l'attraversamento alla cieca per colpa di cuffiette e cappuccio, ma fra i ragazzi aumenta anche la consapevolezza, soprattutto su temi come quelli dell'alcol e delle sostanze stupefacenti alla guida. Comune di Trieste e Polizia Locale tirano le somme dell'attività di educazione stradale nelle scuole. Walter Milocchi, comandante della Polizia Locale di Trieste. In realtà qualcuno, soprattutto sui mezzi a due ruote, preso dall'impeto giovanile, commette violazioni, la velocità, qualche volta alzarsi sulla ruota anteriore. Per il resto bisogna dire che i giovani, i diciottenni, i ventenni, eccetera, in realtà sono più attenti, forse grazie anche alla prevenzione e all'educazione delle scuole che tutte le polizie locali della regione fanno, sono consapevoli dei rischi, forse più dei 50-60 anni alla guida degli autoveicoli. Le buone notizie riguardano soprattutto il rapporto fra alcol e guida. Sono più consapevoli, quindi chi beve non si mette la guida, c'è la persona che quella sera si astiene un po' dal bere che li porta o si usano i pullman, i taxi. Sono decisamente forse più consapevoli delle persone che invece hanno età diverse, che forse non hanno avuto l'occasione di avere educazione stradale nelle scuole. Dal 2018 gli agenti sono entrati in quasi 1000 classi, 120 le giornate di lezione all'anno. Per i più piccoli Trieste è anche l'unica in regione a mettere a disposizione un campo scuola nella sede centrale del comando, dove i bambini possono guidare vere macchinine elettriche in una mini città piena di semafori e segnali stradali da osservare. Caterina De Gavardo, assessore alle politiche della sicurezza cittadina di Trieste. Nel 2024 coinvolgeremo 72 scuole del territorio di Trieste, 200 classi, 3.500 alunni. Le novità di quest'anno sono, grazie a una collaborazione con l'assessorato alla cultura, anche l'utilizzo di una sala molto importante e molto bella che si trova all'interno di Porto Vecchio, sala Luttazzi, che ci darà la possibilità di unire più classi e più scuole assieme per coinvolgere ancora più ragazzi. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. È terminata oggi la nostra settimana monografica di Buongiorno Regione dedicata all'inverno demografico. Tante le ragioni del calo delle nascite, il lavoro precario, la carenza di servizi di supporto alle mamme, ma sono sempre più numerose le donne che i figli semplicemente non li desiderano. Sentiamo le ragioni tra di tre di loro. In un caffè di Trieste incontriamo Sara, Cristina e Chiara. Hanno tra i 38 e i 42 anni, una casa e un lavoro. Due su tre hanno un compagno da più di 10 anni. Nessuna ha figli e probabilmente non li avrà. Magari da piccolina una si aspetta, dice quando avrò figli, però crescendo, raggiungendo poi la maturità, mi sono resa conto che non era qualcosa che io percepivo come un mio obiettivo, come un mio desiderio. La vita è andata così, non ho trovato le relazioni giuste, la persona giusta per poter fare un figlio, lo volevo, e poi con gli anni è arrivata pian piano l'indipendenza mia economica, emotiva. Nel frattempo quindi ci sono state altre priorità che hanno preso più spazio nella mia vita, dandomi appunto la possibilità di interessarmi in vari ambiti e quindi adesso magari non c'è più la voglia di rinunciare al mio mondo. Sono figlia di genitori separati, ho vissuto comunque questa separazione io come figlia non in modo ovviamente piacevole. Questo sicuramente è un substrato da cui partire, però poi nella mia vita io ho sempre cercato di emanciparmi, di rendermi indipendente e infatti ho sempre cercato di avere un lavoro, ho una casa intestata a me. Nutro un sano egoismo, posso dirlo per me stessa, per il mio tempo, che ritengo sia molto prezioso. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Torniamo a parlare di denatalità, infatti uno dei problemi più urgenti e allo stesso tempo meno affrontati a livello sociale. Tra le cause c'è anche il calo della fertilità delle giovani coppie, e non solo perché si decide di avere il primo figlio a un'età più avanzata che in passato, come abbiamo sentito. Esistono anche cause esterne legate allo stile di vita e all'ambiente in cui viviamo, come spiega il primario della ginecologia del Burlo Garofalo di Trieste, Giuseppe Ricci. Si tende a cercare la prima gravidanza sempre più tardi. Consideri che fino a circa 30 anni fa l'età in cui la donna in Italia cercava la prima gravidanza era di circa 26 anni. Oggi siamo a più di 31 anni. L'Italia purtroppo ha il primato in Europa di questo dato di ricerca della prima gravidanza. Noi sappiamo che la fertilità raggiunge un massimo verso i 22-23 anni e poi c'è un declino. Si può parlare di un calo mediamente della fertilità delle coppie? Ci sono altri fattori teorici che possono influenzare negativamente la fertilità: l'inquinamento, l'aumento di quelle che si chiamano malattie sessualmente trasmissibili, il maggior consumo di alcol, di sostanze stupefacenti, soprattutto fra giovani. Ci sono poi altri fattori, forse meno studiabili, l'introduzione di sostanze negli alimenti, nell'industria in genere, che agiscono, che non sono ormoni ma che agiscono come ormoni e che hanno quindi un effetto negativo sia sull'uomo che sulla donna. Quanti sono i bambini in Italia che nascono grazie alle tecniche di fecondazione assistita. Dal 2017 al 2021, in questi 5 anni, sono nati in regione più di 1500 bambini con tutte le tecniche di fecondazione assistita. In Italia sono circa 28.000 bambini nati in questi 5 anni. Questo rappresenta più del 4% dei bambini nati in Italia. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo al tempo, il cielo è sereno, poco nuvoloso su gran parte della regione. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 9,5 gradi, a Gorizia 12,5 gradi, a Udine 10 gradi, a Pordenone 8,5 gradi, a Forni di Sopra 9 gradi, a Tolmezzo 7,5 gradi, a Torvisio 6, a Piancavallo 5,5 gradi, a Sappada 1 grado, sul Monte Zoncolan 2,5 gradi, sul Monte Lussari 2 gradi, a Lignano 7 gradi, a Grado 5,5 gradi. Ma cosa ci aspetta dal punto di vista del meteo nel weekend? Appena cominciato, l'abbiamo chiesto al previsore dell'ARPA regionale, Marcellino Salvador. Per quanto riguarda il tempo nel weekend, sarà ancora dominato dall'anticiclone che è presente sull'Europa occidentale, che porterà temperature molto alte per la stagione, in particolare in montagna, nella giornata di sabato e anche in quella di domenica. Zero termico sabato 3.000 metri, domenica 2.500 metri, di conseguenza temperature durante il giorno decisamente elevate in montagna per appunto la stagione. Su pianure e costa si sentirà meno questo effetto, temperature minime di 1-2 gradi sotto zero sabato in pianura, massime sui 10 gradi, più o meno come sulla costa, dove le minime saranno leggermente più alte, e così anche domenica in pianura avremo valori massimi intorno ai 10 gradi come sulla costa. Possibilità durante le ore serali, notturne e anche al mattino di qualche nebbia sulla bassa pianura e sulla costa, più probabile col passare dei giorni, quindi più probabile verso domenica rispetto a sabato, ma già da sabato sera c'è questa possibilità. Con l'inizio della prossima settimana ancora tempo in prevalenza bello in montagna, viceversa su pianura e costa l'umidità accumulata darà nubi basse, cielo coperto, nebbie, foschie. E poi per aspettare invece un cambiamento che porti le piogge bisognerà attendere ancora qualche giorno dopo la seconda parte della settimana, da probabilmente venerdì, sabato prossimo, avremo una svolta con il ritorno delle piogge. Lo sport si è concluso ieri alle 20 il calciomercato, anche se sarà ancora possibile per i club muoversi in uscita nei campionati dove è ancora permessa la compravendita di giocatori. In Serie A l'Udinese alla fine è riuscita a tenere il difensore argentino Perez, promesso al Napoli, e anche il portiere Silvestri scontento della retrocessione a riserva. Solo movimenti secondari quindi per la squadra di Cioffi. L'esperto difensore argentino Giannetti sarà un puntello fino al ritorno di Biol. Arriva dal Vélez, dove ha giocato tutta la carriera. Tre invece le operazioni in uscita: la promessa Pafundi, è nata in prestito a Losanna in Svizzera, temporanea anche la cessione di Masina al Torino, mentre definitiva quella di Camara allo Charleroi. In Serie C beffata lo scadere la triestina, che non è riuscita a tesserare in tempo il lettone Raimond Crollis, titolare della sua nazionale proveniente dallo Spezia. Tesser rimane così con un attaccante in meno, vista la rescissione del contratto di Finotto qualche ora prima. Gli acquisti in questa sessione di mercato per la prima squadra sono stati il terzino canadese Patrasso, la punta finlandese Fertainen e il centrocampista dell'Udinese friulano Ballarini. Sono invece stati ceduti, oltre a Finotto, l'attaccante Adorante e il centrocampista Piero Bon alla Juve Stabia e il giovane Kozlowski in prestito alla Pro Vercelli. Sarà presentato oggi All in gioco per la legalità, progetto educativo, informativo e di ricerca finalizzato al contrasto del gioco d'azzardo, dei fenomeni di sovraindebitamento e usura correlati. Appuntamento alle 15 nella sala polifunzionale del presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine. L'evento è organizzato dal Movimento Difesa del Cittadino FVG APS di Udine. Al presidente Raimondo Gabriele Englaro abbiamo chiesto com'è la situazione della dipendenza da gioco d'azzardo in Friuli Venezia Giulia. La situazione è comunque preoccupante, non allarmante. Ci sono circa 6.000 famiglie coinvolte, perché al proprio interno vi è un componente che soffre di disturbo del gioco d'azzardo. E questo ha comportato fra 2022 e 2023 una crescita comunque ulteriore del drenaggio di denaro, che è oltre 930 milioni di euro. Quindi significa che c'è una media di circa 1.700-1.800 euro a giocatore. Questa situazione poi arriva fino a 4.500-4.800 euro di esposizione finanziaria. Che progetto presentate? Progetto All in gioco per la legalità è un progetto educativo, informativo, che è finalizzato a contrastare il gioco d'azzardo appunto patologico e soprattutto i fenomeni correlati che sono quelli del sovraindebitamento e della conseguente usura e estorsione. E quindi la campagna informativa è di sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto le fasce dei giovani e dei giovanissimi che, ai noi, grazie alla tecnologia dei telefoni cellulari, è sempre più propesa a sperimentare e a provare delle emozioni forti attraverso il gioco d'azzardo. Quindi l'obiettivo, attraverso una campagna sia sui social media ma attraverso queste conferenze, sarà quello di focalizzare appunto i livelli espositivi del giocatore medio patologico e soprattutto fornire una serie di dati e indicatori per far riflettere e meditare i potenziali a rischio. E c'è una news: abbiamo creato un'applicazione, un'app per un test di autovalutazione sul rischio che si può correre da disturbo del gioco d'azzardo. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. I cambiamenti climatici, il consumo del suolo, lo sviluppo economico sono elementi che mettono a forte rischio i delicati equilibri dei sistemi naturali costieri e la biodiversità essi connessa. Se ne è parlato a Staranzano nel convegno dal titolo Interventi di gestione per la salvaguardia e l'incremento delle zone umide costiere, che ha visto anche un'escursione guidata alla riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo. Oltre 340 specie di uccelli e 25.000 visitatori all'anno sono i numeri dell'isola della Cona, area naturale protetta alle foci dell'Isonzo, che fa parte delle cosiddette terre umide della regione, che si trovano nei pressi di corsi d'acqua e lungo l'arco costiero. Sono fondamentali per la biodiversità e sempre più a rischio anche a causa del cambiamento climatico, con il livello del mare che cresce e sala i terreni. L'area dell'isola della Cona, nata negli anni 90 con un progetto di rinaturazione che ha recuperato terreni agricoli, è un modello per la sua gestione attiva, area ricreata quindi che va mantenuta, come spiega Matteo De Luca, responsabile della stazione biologica dell'isola della Cona. Negli ultimi 3 anni sono stati diversi gli interventi messi in atto per la gestione della vegetazione, per i livelli idrici, ma anche per la ricostruzione degli argini e delle strutture idrauliche deteriorate a causa delle varie mareggiate. In particolare è stato creato un bypass idraulico con l'Isonzo per poter disporre in caso di piena di acqua e allagare i ripristini. Lavori compiuti grazie ai fondi regionali che ammontano a circa 1 milione di euro. Per il futuro l'idea è di replicare questo modello in altri 10 ettari di terreno agricolo vicini all'area. Saranno convertiti in terre umide grazie a fondi europei. I lavori di allagamento partiranno quest'estate. Gorizia, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questo appuntamento con il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Andrea Saulo e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Grazie per la cortesa attenzione. Appuntamento al prossimo GR alle 15. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.